Ovviamente dipende chi fa il programma elettorale, perché da quello che vediamo in giro c'è chi appunto è proprio contro i lavoratori più che contro il lavoro, cercando invece di forzare le persone a lavorare per niente. Sicuramente quello che servirebbe, lo ripetiamo da tempo, ma quanto mai oggi, anche di fronte appunto a una crisi economica che continuerà ad acuirsi, sono da un lato creare occupazione di qualità, cosa che il settore privato negli ultimi decenni in Italia non ha più fatto, e quindi un grande piano di assunzioni pubbliche lì dove effettivamente serve tantissima gente. Ricordiamoci, la pubblica amministrazione è sia sottodimensionata di circa 1 milione di posti di lavoro rispetto alla media europea, ma anche altro record di un'età media di oltre 55 anni. E allo stesso tempo ci mancano i medici, gli infermieri, ci mancano gli insegnanti, ci mancano anche gli autisti, per esempio il trasporto pubblico locale, che in realtà diamo in pasto agli appalti e subappalti, con ovviamente una ricaduta sulle condizioni di lavoro, salariali e ritmi di vita e di lavoro. Quindi un grande piano di assunzioni pubbliche che da un lato appunto arrivi a colmare quello che è stato il blocco del turnover degli anni passati, ma che si doti proprio di quelle infrastrutture umane, quindi degne poi di un paese civile, perché ricordiamoci sempre che chi lavora nel pubblico alla fine crea e distribuisce servizi, soprattutto per chi non si può permettere di andarli a pagare sul mercato. Parliamo della sanità, parliamo della scuola, parliamo del diritto alla mobilità. E poi servono su, diciamo, il mercato non soltanto pubblico ma anche privato, due o tre provvedimenti indispensabili. Il primo, lo ricordiamo, è il salario minimo, un salario minimo fatto bene, ovvero che risponde in qualche modo all'articolo 36 della Costituzione, secondo cui nessun lavoratore deve essere povero, e questo va detto, e quindi dobbiamo rimandare e rispedire al mittente tutti quei tentativi posticci e postumi oggi, per esempio da parte del PD, ma anche di parte dei sindacati confederali, secondo cui basta estendere dei contratti collettivi che sono indegni, 4, 5, 7, 8 euro lordi l'ora, perché appunto almeno ci vogliono 10 euro lordi l'ora più tutti i diritti sociali. Allo stesso tempo, unitamente al salario minimo legale, abbiamo bisogno da un lato sicuramente di abbattere, in qualche modo contenere l'esplosione del part time, e questo si può fare facendo o pagare tantissimo i part time e quindi rendendoli sfavorevoli, disincentivandoli per i datori di lavoro, o imponendo delle regole ferree secondo cui il part time può essere attivato soltanto per davvero esigenze produttive che abbiano degli orari ridotti, ma non si può giocare sulla rotazione dei lavoratori. Diciamo, partendo da questi tre macro temi, che poi sono riforme strutturali vere e proprie, si va ad aggredire tutto il resto, cioè i contratti brevissima durata di 1 o 2 giorni, anche là bisogna fare esattamente l'opposto, disincentivarli facendoli costare tantissimo alle imprese, ma anche vietandone l'uso lì dove la funzione produttiva ha bisogno di orari di lavoro e di durate del ciclo produttivo, e quindi anche dell'esigenza di lavoratori molto più lunga. Ci troviamo in un contesto con un'inflazione che in alcune regioni supera l'8%, si è parlato nelle settimane scorse anche di scala mobile, insomma di meccanismi di indicizzazione dei salari, è giusto introdurre qualcosa del genere? Sì, questa è un'altra delle battaglie in qualche modo che bisogna riproporre. Poi appunto possiamo non parlare di vecchia scala mobile, che a qualcuno vengono gli incubi quando non dovrebbe, ma sicuramente il potere d'acquisto dei lavoratori va difeso, ci sono dei meccanismi per cui appunto si può fare, perché anche lì quello che noi vediamo è che tutta l'inflazione è un'inflazione importata, riduciamo i margini di profitto o cerchiamo anche di cambiare, se vogliamo, i cicli e le produzioni del nostro tessuto produttivo e abbassare i costi per le imprese invece che scaricarli sempre sui lavoratori. L'indicizzazione in qualche modo andrebbe fatta sia sul salario minimo legale da introdurre, sia sugli adeguamenti dei contratti collettivi nazionali, perché ad oggi non viene fatta, e soprattutto se andiamo a guardare i rinnovi che avvengono ogni 4-5 anni e non recuperano neanche la media dell'aumento dei prezzi di questi ultimi 4-5 anni di rinnovo, capiamo che non ce la si fa. Non è un caso che i lavoratori italiani negli ultimi 30 anni abbiano perso in potere d'acquisto rispetto a tutti gli altri colleghi europei, dove invece, anche seppur bassi, non necessariamente elevati, hanno comunque visto aumentati i propri salari reali. Un'ultima domanda, forse così anche un po' provocatoria: questi punti che hai elencato potrebbero essere recepiti da qualcuno che è presente nell'attuale arco politico? Ma vabbè, ovviamente è una provocazione non indifferente. Io credo che di gente intelligente in giro ce ne sia, mi pare che non ci sia gente realmente ambiziosa data la fase, ma non soltanto di quest'ultimo mese, cioè parliamo di un mese di campagna elettorale su cui si potrà fare ben poco, ma che negli ultimi anni si poteva fare. Purtroppo non vedo gente in giro che dice andiamo a vincere, perché si può vincere su questi temi, perché si sta parlando alla maggioranza della società italiana con uno scontro duro con la controparte, quindi il centrodestra, diciamo, neoliberista trazione PD Draghi, e la destra reazionaria, no? Della destra che conosciamo, da Meloni, Salvini, Forza Italia. Purtroppo però questa ambizione non si vede nelle strade, non si sente in qualche modo in quella che dovrebbe essere poi la messa in comune, ma si continua a parlare un po' di tatticismi, di difendere la propria alterità senza però praticarla, e forse questo è un problema.